E buonasera a tutti, mentre sono le 21:04 minuti di questo 2 aprile 2012. Salutiamo tutti i radioascoltatori di Radio Alma, in particolare coloro che stanno con noi ogni lunedì dalle 21 alle 22, con appunto la trasmissione I colori dell'anima. Stasera con me Rosanna c'è Anna Maria. Buonasera a tutti. Ciao Anna Maria, buonasera, ti avevo chiuso il microfono, non avevo sentito la tua voce. Allora, Anna Maria è già stata qui con noi in radio un'altra volta, lo scorso anno, se non sbaglio, Sì. era insomma un po' di mesi fa. Era un'altra stagione. Era un'altra stagione, esattamente. Ci vuoi anticipare di cosa parleremo stasera, i colori dell'anima? Fare, diciamo, un micro riassunto. Un micro riassunto. Questa sera parleremo degli italiani all'estero. Abbiamo scelto due argomenti che ci sembravano agli antipodi, ma comunque avevano una stessa sostanza. E quindi il tema della trasmissione sarà dalla caliente Spagna alla luminosa Islanda. Benissimo, allora io direi proprio di entrare subito nel vivo della trasmissione di oggi, quindi Spagna e Islanda. Volevo solo ricordare, prima di cominciare a entrare nel vivo, che le informazioni di cui parleremo stasera sono tratte dal rapporto Italiani nel mondo 2011. Un documento preparato dalla Fondazione Migrantes con dati raccolti appunto nel corso del 2011 e molte delle informazioni che vi daremo si riferiscono pertanto al 2010 o a seconda della disponibilità a questi ultimi anni. Sì, dunque, iniziamo con la Spagna. L'Italia e la Spagna sono accomunate da molti elementi. Nel secolo scorso, per esempio, tanto l'Italia quanto la Spagna si distinsero per essere paesi notoriamente di emigrazione. Essi hanno attraversato forti correnti migratorie, tanto interne, dal sud al nord, che esterne, principalmente transoceaniche, nella prima metà del secolo, e verso il centro e il nord Europa negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. La tendenza è cambiata successivamente. Il forte sviluppo economico intervenuto negli ultimi decenni nei paesi dell'Unione Europea ha provocato non solo il ritorno di cittadini italiani e spagnoli nei rispettivi paesi, ma anche il fatto che sia l'Italia che la Spagna si sono trasformate nei principali poli di attrazione migratoria extracomunitaria dell'Unione Europea. Ora, poi la crisi economica del 2007-2008, quindi diciamo la crisi di questi ultimi anni con la relativa crisi lavorativa, ha messo fine al boom immigratorio in entrambi i paesi e il perdurare della crisi sta spingendo, ma soprattutto i giovani che sono più penalizzati, a cercare opportunità di lavoro fuori dai rispettivi paesi di nascita. Questo fenomeno penso che sia abbastanza noto perché viene chiamato fuga di cervelli e in pratica riguarda l'emigrazione all'estero dei giovani più preparati, quelli laureati, quelli magari che hanno anche un dottorato e qualificati professionalmente. Non si può parlare in questo caso di vera e propria corrente migratoria, ma si possono osservare le preferenze delle mete scelte dai giovani. E tra queste notiamo appunto Madrid e Barcellona come le destinazioni preferite per vivere e lavorare nonostante la crisi economica. Bene, vediamo ora la situazione degli stranieri in Spagna. Dopo il forte afflusso di immigrazione straniera extracomunitaria, si è riscontrato nel 2010 che il fenomeno migratorio si è stabilizzato e modificato nella sua composizione. Nell'ultimo anno, infatti, è aumentato il numero di cittadini dei paesi dell'Unione Europea residenti in Spagna, mentre è diminuita la presenza di stranieri di altri paesi. Infatti, la proporzione dei residenti stranieri a cui si applica il diritto di libera circolazione e residenza del regime comunitario è del 48,7%, rispetto al 51,2% degli stranieri del regime generale. Nello specifico, i 2 milioni circa di cittadini del regime comunitario, cioè il 48% degli stranieri residenti in Spagna, sono provenienti prevalentemente dalla Romania, per un 35%. Seguono il Regno Unito, 9%, e infine l'Italia, un 7%. Ma è da notare che il maggior incremento annuale di residenti stranieri è quello italiano, infatti rappresenta il 12%. Ne parleremo ancora. Ascoltiamo un po' di musica, Rosanna. Allora, sì, cambiamo un po' genere musicale. Prima abbiamo ascoltato Vasco Rossi, adesso invece, visto che siamo quasi in prossimità della Pasqua, vi faccio ascoltare un brano di una cantante che si chiama Cristina Pluhar, da un CD che si chiama Via Crucis, quindi siamo appunto in tema, e questo CD, questa canzone, si chiama Lumi, potete piangere, quindi vediamo se ci fa piangere, ve lo diremo fra pochi minuti, ma comunque rimanete sintonizzati sulle onde di Radio Alma con la trasmissione I colori dell'anima, e a ritrovarci fra pochissimi minuti. E questa era la canzone Lumi, potete piangere, tratto da un CD che si chiama Via Crucis del gruppo L'Arpeggiata, Cristina Pluhar, e che così mi sembrava appunto adatto al clima pasquale di questi giorni, ma non perché naturalmente possiate piangere, al contrario. Questa sera nella trasmissione dei colori dell'anima stiamo parlando di emigrazione e abbiamo scelto insieme ad Anna Maria, che è qui in studio con me, abbiamo scelto di guardare alla Spagna e all'Islanda, informazioni che potrete ritrovare più in dettaglio nel rapporto Italiani nel mondo 2011, documento pubblicato dalla Fondazione Migrantes. E a proposito di emigrazione, questa sera abbiamo anche un'altra ospite con noi, Annalisa. Ciao Annalisa, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, tu sei un'emigrata italiana, però non sei né in Spagna né in Islanda, ma qua in Belgio. Eccomi. Ecco, quindi non abbiamo parlato, stasera non parleremo degli emigrati qui in Belgio, ma ovviamente noi tre siamo un esempio, giusto? Assolutamente. Quindi Anna Maria, Annalisa e Rosanna sono tre emigrate italiane che da varie regioni si ritrovano qui in Belgio. Annalisa, ti piace il Belgio? Sì, soprattutto il cioccolato. Ecco, e la birra? La birra anche. La birra anche, va bene. Soprattutto a mio marito. Ecco, vedi, a te la cioccolata, a tuo marito la birra, quindi esatto. Siete a posto. Va bene, allora ascolteremo ancora la tua voce, poi magari ti faremo altre domande. Intanto chiederei ad Anna Maria di continuare quindi con questa... sono io, scusa, è vero, eravamo d'accordo che stavolta parlavo io, brava. Allora, stavamo parlando quindi di emigrazione italiana in Spagna. Gli italiani quindi sono è il popolo praticamente più, è uno dei popoli più rappresentati, ma soprattutto c'è stato un aumento un maggiore incremento di residenti italiani in Spagna. Un altro dato interessante che riguarda quindi le statistiche sull'immigrazione in Spagna è che il 63% degli stranieri risiede prevalentemente in quattro regioni, quindi abbiamo parlato prima di Madrid e Barcellona, quindi Madrid e Catalunya, ma poi ci sono anche Valencia e Andalusia. La prima provincia ovviamente è Madrid e la seconda Barcellona, come già detto. Occorre inoltre evidenziare che il 61% degli stranieri del regime comunitario residente in Spagna ha fra 20 e 44 anni, quindi con un'età media di 36,6 anni. Nel 2009 il gruppo di età più numeroso era fra 16 e 64 anni e in particolare in questo gruppo quello della classe 25-34 anni rappresentava il 35%. Si tratta quindi di un collettivo prevalentemente giovane, in età da lavoro e non da pensione, chiaramente, come ci dicono questi numeri, come invece accade per i cittadini che provengono dai paesi del nord e del centro Europa, perché effettivamente, e probabilmente lo si può vivere anche stando qui in Belgio, molti belgi, ma anche appunto tedeschi eccetera, hanno la casa di vacanza in Spagna, quindi in questo caso si tratta spesso di pensionati. È importante comunque sottolineare che parte di questi cittadini italiani residenti in Spagna, pur avendo cittadinanza italiana, può provenire anche dall'Argentina o dall'Uruguay. Esattamente. Ora vorrei parlare della situazione degli Erasmus italiani e sul perché scelgono la Spagna. Dal 1987 il programma di borse di studio Erasmus dell'Unione Europea offre a migliaia di studenti italiani la possibilità di realizzare un corso dei propri studi universitari al di fuori del proprio paese. Le quattro destinazioni più popolari per i borsisti di questo programma sono la Spagna, che riceve più di 30.000 studenti, quindi un 34%, segue poi la Francia con un 15%, la Germania con il 10% e infine il Regno Unito con 9%. Se gli studenti italiani dell'Erasmus scelgono la Spagna e le sue università per realizzare parte dei propri studi universitari, non ci deve poi sorprendere che si ritornino in Spagna a vivere e magari anche a lavorare. Quindi chi sono i nuovi migranti? Tornando alla situazione di crisi economica attuale e di fronte alle scarse possibilità che le cose migliorino entro brevi, non ci sorprende che molti giovani italiani pensino di abbandonare il proprio paese, dove dando vita al già citato fenomeno di nuovi migranti o cervelli in fuga. Il rapporto Eurispes del 2011, infatti, mostra che il 50% degli italiani tra 25 e 34 anni vorrebbe trasferirsi all'estero. I nuovi migranti sono, secondo i dati conosciuti, molto diversi rispetto a chi li ha preceduti. Si tratta soprattutto di tecnici, persone qualificate e giovani appena laureati, ed è un fenomeno che impoverisce il patrimonio nazionale delle migliori forze. Vedremo più in là tutto questo dopo una breve pausa musicale. Sì, allora adesso il brano che vi propongo è un brano di Lisa, una canzone di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Rimanete sintonizzati sulla vostra frequenza 101.9 con i colori dell'anima, mentre sono le 21:18 minuti e noi ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Allora, e questa era Elisa con la canzone, oddio, aiutatemi ragazze, come si chiamava questa canzone? Solo tu nell'universo? Vabbè, insomma, qualcosa del genere, adesso ve lo dico bene. Allora, si chiamava Almeno tu nell'universo. Ecco, un dettaglio. Ecco, allora, dunque state ascoltando I colori dell'anima, sono le 21:23 minuti, stiamo parlando di emigrazione di italiani in Spagna e in Italia, sono qui con Anna Maria che mi sta aiutando, ma volevamo ricordare anche qualche informazione sulla nostra radio. Intanto, se volete telefonarci... Sì, potete fare lo 02 345 2656. Benissimo, allora potete anche visitarci su internet, il sito è molto semplice, radioalma.eu/i colori dell'anima, semplicissimo, radioalma.eu/i colori dell'anima, e ovviamente ci potete anche mandare una email a icoloridellanima@radioalma.eu. Vai Anna Maria. Allora, torniamo al nostro argomento. Nel rapporto Eurispes del 2006, le ragioni per le quali i giovani volevano andare via erano, erano concrete. Migliori opportunità di lavoro presenti in altri paesi, curiosità e stimoli di tipo culturale. L'estero dava loro l'opportunità di arricchirsi, di crescere professionalmente, culturalmente e umanamente, pur apprezzando ciò che l'Italia offriva loro. Nel 2010 emerge un netto peggioramento della situazione. Le ragioni che invitano a lasciare il paese sono nell'ordine: la precarietà lavorativa, la mancanza di senso civico, l'eccessiva corruzione, la sfiducia nella classe politica, la situazione economica e così via. I giovani oggi desiderano andarsene, pur sapendo che le cose sono difficili anche all'estero, a causa della crisi economica. Allora, chiediamo ad Annalisa. Tu sei andata via per uno di questi motivi? No. Ecco, vedi, per fortuna che ci sono anche dei motivi positivi per cui uno va all'estero. Sì, assolutamente. Benissimo. Allora, dove vanno quindi questi giovani qualificati? Secondo il rapporto Eurispes 2011, i paesi preferiti sono la Francia, gli Stati Uniti, la Spagna, l'Inghilterra e la Germania. Nello stesso rapporto si dice che la Spagna occupa uno dei primi posti poiché era il paese con la maggiore percentuale di crescita economica e quello che creava più occupazione. Ma nel 2006 ci sorprende quindi che oggi nel 2000, questo rapporto come dicevo si riferisce al 2011, quindi nel 2011, nonostante la forte crisi economica che colpisce la Spagna, essa permane il terzo paese preferito dai giovani italiani per emigrarvi. Pur non essendo il paese in cui ci sia in valore assoluto il maggior numero di italiani, la Spagna ha registrato tra il 2006 e il 2010 il più alto incremento di immigrazione italiana, pari a 56%, mentre negli altri paesi l'incremento è stato inferiore al 10%. Anche i dati del Ministero spagnolo del Lavoro e dell'Immigrazione registrano questo boom della presenza italiana. Tra il 2006 e il 2010 i residenti italiani sono passati da 98.000 a 170.000 e, come detto già in precedenza, Madrid e Barcellona sono le città con il più alto numero di cittadini italiani. Infatti, Rosanna, nel 2006 Barcellona aveva 18.779 italiani e Madrid ne aveva 16.976. Nel 2010 le statistiche hanno rivelato che a Barcellona risiedono 41.836 italiani, mentre a Madrid sono 23.200. Ciò vuol dire che a Barcellona tra il 2006 e il 2010 l'aumento dei residenti italiani è stato del 122%, mentre a Madrid del 36%. Se questo fenomeno si verifica nonostante la crisi lavorativa vissuta attualmente in Spagna, e tanto più nelle sue principali città, significa che il primo obiettivo degli italiani è proprio vivere in Spagna, e poi in seguito cercano un lavoro per poter finanziare il permanere nella terra spagnola. Vedremo tra qualche minuto quali sono gli elementi che attraggono in terra iberica. Nel frattempo quindi vi proponiamo un altro brano musicale, mi raccomando rimanete sintonizzati con I colori dell'anima sulla frequenza 101.9. Ricordo anche comunque che la trasmissione si può ascoltare anche da internet, quindi andando al sito di Radio Alma, radioalma.eu, e si può ascoltare successivamente in podcast, quindi al nostro sito radioalma.eu/ I colori dell'anima. A risentirci fra pochissimi minuti. E questa era Anna Ox, Tutti i brividi del mondo, su Radio Alma, nella trasmissione I colori dell'anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Quindi saremo con voi, e in particolare con Anna Maria, Rosanna e Annalisa, fino per una mezz'oretta ancora. Stiamo parlando di emigrazione in Spagna, poi vedremo anche l'Islanda, e abbiamo visto che le città preferite degli italiani sono Madrid e Barcellona, vero Anna Maria? Esattamente. Quindi, come dicevo poco fa, ci sono vari fattori che possono far aumentare l'interesse per il paese iberico. Abbiamo il successo sportivo di questi ultimi anni, l'aumento del turismo degli italiani, la scelta della Spagna come prima destinazione della stragrande maggioranza degli studenti italiani del programma Erasmus, la forte concorrenza delle compagnie low cost, la pubblicità dei siti blog della rete che identifica la Spagna con la felicità, il legame storico tra Italia e Spagna e la vicinanza geografica, culturale, linguistica e soprattutto gastronomica. A Barcellona, subito dopo l'Ecuador e davanti ai marocchini e ai romeni, sono gli italiani la comunità straniera più consistente. Una caratteristica che da sottolineare, è che a Barcellona gli italiani residenti sono soprattutto di origine italiana e non argentina o uruguaiana, secondo dati consolari. Più del 60% degli italiani residenti a Barcellona sono nati in Italia e si tratta soprattutto di neolaureati. Infatti, gli italiani residenti in Spagna sono presenti in tutti i settori di attività economica, pur essendo, da bravi italiani, predominanti nel settore dei servizi e della ristorazione. I dati ufficiali ci dicono che il 95% degli italiani inseriti nel mondo del lavoro sono imprenditori e professionisti, e solo il 5% è rappresentato da lavoratori dipendenti e prestatori d'opera. In particolare, a Barcellona e a Madrid, la presenza italiana è ben integrata e include un ampio gruppo di giovani professionisti come architetti, avvocati, medici, giornalisti e scienziati in generale. Dalla lettura di alcuni blog emerge che Barcellona attrae perché è considerata una città aperta, cosmopolita, che garantisce il divertimento e, in poche parole, un'oasi di libertà. E Madrid invece è vista come una città vibrante, cosmopolita anch'essa, e di grande vivacità. In definitiva, la Spagna è di moda tra gli italiani, specialmente tra i giovani. Per loro si è verificato un vero e proprio colpo di fulmine per la Spagna, dove la gente è positiva, ha uno stato d'animo predisposto al divertimento e soprattutto a star bene. Gli spagnoli, nonostante i gravi problemi, reagiscono operando con forza e speranza. Allora, siamo arrivati alla pausa musicale e vi propongo di nuovo un altro brano di questo gruppo che si chiama L'Arpeggiata con Cristina Pluhar, tratto da un CD che si chiama Via Crucis, e il brano in particolare si chiama Ninna Nanna alla Napoletana. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi, con I Colori dell'Anima, e a ritrovarci fra pochissimi minuti. Allora, e questo era un brano del gruppo L'Arpeggiata con la cantante Cristina Pluhar, mentre ascoltate, state ascoltando I Colori dell'Anima. Allora, nella trasmissione I Colori dell'Anima, ad ogni puntata associamo un colore. E a dire la verità, questa sera non ci abbiamo ancora pensato. Anna Maria, ti viene un colore che c'è un colore che ti viene in mente associato alla Spagna e all'Islanda? Azzurro. Azzurro per l'Islanda, sì, la Spagna. Rosso. Beh, dai, però. Allora facciamo rosso due colori. Caliente. Rosso e azzurro, va bene. Quindi questa sera rosso per la Spagna e azzurro per l'Islanda. Perché? Perché stiamo parlando di emigrazione, appunto, in Spagna. E adesso vediamo un po' la situazione in Islanda. Quindi ci spostiamo proprio da tutt'altra parte. L'Islanda, terra di fuoco e di ghiaccio, è situata all'estremo nord-ovest del continente europeo, appena sotto il circolo polare artico, e la terra dei ghiacci, in cui Jules Verne immaginò il suo viaggio al centro della terra. Terra di saghe, di elfi e prodigi. Qui il sole risplende a mezzanotte, l'aurora boreale illumina le notti polari con colonne di luce colorate, e lo sguardo perde la percezione delle distanze, e i miraggi della fata morgana ti illudono di vedere figure ben definite che in realtà non esistono. L'isola è nota per la sua attività vulcanica, ancora prima che nel 2010 la famosa gigantesca nuvola di cenere prodotta dall'eruzione del vulcano, ecco qui ti voglio con la pronuncia, Eyjafjallajökull, un nome facilissimo che abbiamo tutti imparato. Ecco, sei bravissima. Sì, prima che questa, il famoso vulcano, mettesse in ginocchio il traffico aereo e l'economia europea. Volevo solo fare una parentesi, perché quando c'è stato questo vulcano è stato molto divertente che sono girate una serie di barzellette, no? E ce n'era in particolare una con uno scienziato che stava così davanti al computer. A un certo punto si è spostato dal computer, il gatto passa sopra la tastiera e quindi dal passaggio con le zampette sulla tastiera esce fuori questo nome stranissimo, e allora torna lo scienziato al computer e dice: ecco, ho trovato il nome. Quindi così è nato il nome, si racconta che è colpa del gatto, infatti. L'Islanda è un'isola geologicamente molto giovane, con una forte attività vulcanica e geotermica che ne caratterizza il paesaggio. Fiumi e cascate, per lo più alimentate, adesso un altro nome facilissimo, dal Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d'Europa, se non lo sapeste, scorrono in zone vulcaniche inaccessibili, mentre i territori interni portano ancora i segni della loro genesi, intaccati solamente dall'erosione del vento e dei ghiacci. Scenari lunari creati dal transito della lava, distese di muschio, colline verdeggianti, ghiacciai che si gettano nel mare, tutto questo è l'Islanda. E poi i geyser, i soffioni, sbuffi e calde pozze naturali dove immergersi mentre fuori c'è il gelo. Deserti di lava, fiordi, fiumi e laghi e cascate, a non finire. Territori di straordinario fascino dove uomo, natura e tecnologia convivono sapientemente. Qui è possibile assistere in diretta alla nascita di un'isola e poi utilizzarla per lo studio biologico della colonizzazione delle isole vulcaniche, come è accaduto nel 1963. In soli 4 anni dal fondo dell'oceano è emersa Surtsey, un'isola di 3 km², un territorio che gli islandesi hanno immediatamente asservito alla scienza, dapprima filmando l'evento e poi utilizzando il nuovo territorio come laboratorio a cielo aperto per lo studio e l'osservazione dei processi di colonizzazione delle forme di vita, in luoghi che ne sono totalmente privi. Grazie all'efficienza e alla tempestività di questi popoli, oggi sappiamo che le prime forme di vita a colonizzare Sarcey, appunto quest'isola, sono stati prima gli insetti, portati dal vento, nel 1964, poi i muschi e i licheni, nel 1965, le foche, nell'83, le colonie dei gabbiani, nell'86, fino alla crescita di piante e alle presenze di nidi di pulcinella di mare trovati sull'isola nel 2004. E insomma, quest'Islanda è proprio un laboratorio aperto di ricerca. Aperto. È interessante, sì, probabilmente, forse anche perché è abbastanza sconosciuto. Voi siete mai andata in Islanda? No. E pensate di andarci? Confesso di averci pensato, ecco. Subito dopo c'è stata l'eruzione del vulcano, non so se è stata colpa mia. E tu, Annalisa, ci vuoi andare? Ma io, da amante dei viaggi, direi proprio che ci dovrò andare. Infatti, devo dire che l'Islanda, sì, non è che io abbia visitato tanti posti, però appunto dopo la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, adesso ci vuole anche l'Islanda, perché veramente ha un fascino molto particolare. Allora, continuiamo la nostra trasmissione dei colori dell'anima con un po' di musica, ci ritroviamo quindi come sempre fra pochissimi minuti e naturalmente siamo quasi alla fine perché vedo già che sono le 21:45, però parleremo ancora di emigrazione in Islanda e poi naturalmente, ahimè, dovremo salutarvi, comunque a fra pochissimo. Allora, questa era Irene Grandi, sempre su Radio Alma I Colori dell'Anima, e la canzone si chiamava Bruci la città. Allora, sono le 21:50, ci stiamo avvicinando alla fine della trasmissione di oggi dei Colori dell'Anima, dedicata alla emigrazione in Spagna, ma stavamo appunto parlando adesso invece dell'emigrazione in Islanda. Esatto. Intanto stavamo parlando genericamente del paese e di... Certo, del laboratorio di ricerca aperto. A cielo aperto, esattamente. Ora passiamo a qualcosa di un pochino meno romantico, meno scientifico e molto più pratico. L'Islanda infatti è il paradiso dell'energia rinnovabile, dove l'intero fabbisogno energetico è assicurato da fonti idriche e geotermiche. Il 100% del fabbisogno insulare di elettricità e di riscaldamento è già adesso soddisfatto con fonti rinnovabili. I corsi d'acqua che scendono dai ghiacciai dell'isola forniscono l'80% dell'elettricità, mentre il restante 20% viene ottenuto dalle centrali geotermiche. Un paese, l'Islanda, continuamente impegnato in studi e ricerche innovative che consentono di ottenere dall'idrogeno l'energia per alimentare i veicoli e le imbarcazioni. Se la ricerca porterà i suoi effetti, si stima che entro il 2050 l'Islanda sarà completamente carbon free. Secondo i geologi, le potenzialità del paese in termini di fonti rinnovabili sono ancora più grandi. Le compagnie energetiche islandesi, che già riscaldano l'85% delle abitazioni dell'isola con energia geotermica, pensano di estendere la profondità dei pozzi geotermici a 5 km ed aumentare la produzione di energia. Se il progetto andrà in porto, l'Islanda arriverà alla completa indipendenza energetica e a vendere addirittura l'energia al resto dell'Europa. Ma vediamo ora anche come è stata colonizzata l'Islanda. In pochi luoghi al mondo la potenza della natura è così evidente come in quest'isola, e forse anche per questo motivo l'isola è rimasta lungamente disabitata dagli uomini. La datazione sui primi insediamenti è incerta, perché sono state rinvenute alcune antiche monete e vasellame risalenti al III secolo, ma potrebbe trattarsi soltanto di tracce lasciate da spedizioni di passaggio. In ogni caso, riguardo alla colonizzazione, non si hanno testimonianze certe fino al IX secolo. Tra i primi colonizzatori ci furono sicuramente i popoli del nord, i vichinghi o normanni, provenienti dalla penisola danese o scandinava. Di sicuro, dal 874 i norvegesi colonizzarono l'isola, costituendo piccole comunità autonome formate da differenti famiglie, che nel 930 costituirono l'Alting, un governo elettivo considerato tra le più antiche assemblee legislative europee. Intorno al 1000 il cristianesimo si diffuse sull'isola. Dominata prima dalla Norvegia e poi dalla Danimarca, l'Islanda raggiunse la completa indipendenza nel 1944, proclamandosi Repubblica Parlamentare. Grazie al relativo isolamento nel corso dei secoli e ai progressi scientifici della genetica in Islanda, sappiamo con certezza che la popolazione discende da coloni norvegesi e coloni celti delle isole britanniche e che la maggior parte dei coloni di sesso maschile era di origine norvegese, mentre la maggior parte delle donne di origine gaelica. Oggi la popolazione è appena superiore ai 300.000 unità, è distribuita in un territorio grande circa un terzo di quello italiano e ben oltre la metà della popolazione locale vive nell'area metropolitana di Reykjavik. Un popolo straordinario che parla una lingua antica rimasta relativamente invariata dal XIII secolo, circostanza che rende gli islandesi molto protettivi nei confronti del loro patrimonio linguistico. Come tutte le isole particolarmente appartate, la comunità islandese ha sviluppato un carattere abbastanza chiuso, non tanto dal punto di vista intellettuale, per il quale è particolarmente progredito, quanto dal punto di vista dei rapporti umani. Infatti le politiche migratorie, per esempio, sono decisamente restrittive e c'è un severo controllo sui flussi migratori in entrata. Per la maggior parte degli stranieri che vivono in Islanda sono lavoratori temporanei oppure sono coniugati con un islandese. È interessante anche da aggiungere che gli islandesi sono molto colti, leggono moltissimi, infatti sono tra i consumatori più accaniti per numero di libri e riviste letti pro capite. La lettura è talmente amata che in quest'isola in Islanda quindi esiste un detto: meglio rimanere senza scarpe che senza un libro. E non sorprende quindi che da questa popolazione, che abbiamo detto di circa 300.000 abitanti, quindi come la regione Molise in pratica, ci sia stato appunto un premio Nobel per la letteratura, Halldór Laxness. Ma abbiamo parlato di migrazione perché? Perché in Islanda ci sono degli italiani. E pensate un po' quanti italiani ci sono. Allora, nel 2011 erano iscritti quanti, Anna Maria? 181. Ecco, 181 italiani, pensate che grande numero. Quindi, insomma, però, appunto, quanto siano pochi, comunque un numero rilevante, tenendo conto che la popolazione islandese, appunto, è di 300.000. È abbastanza rilevante, certo, non si possono paragonare con i 2 milioni di emigrati che sono... In Europa. In Europa, sì. Chiaramente... Non è la stessa proporzione. Allora, no, comunque la tendenza, la comunità italiana è soprattutto maschile. Gli italiani in Islanda hanno un grado di istruzione medio-alto, sono iperinformatizzati, laboriosi e perfettamente integrati nella società di accoglienza, con grande bisogno di mantenere contatti con la madrepatria. Ma fondamentale per ottenere un lavoro risulta la conoscenza della lingua islandese, che sicuramente è facilissima, vero? Considerando i nomi dei vulcani direi di sì. E infatti questa è una delle più grandi difficoltà a cui gli italiani devono far fronte. Allora, beh, direi che siamo veramente arrivati alla fine della trasmissione di oggi. Io vorrei fare un breve giro di ringraziamento. Anna Maria, grazie. Grazie a te, Rosanna. Vorrei che facessi una promessa in diretta alla radio. Tornerai ancora qui con me ai Colori dell'Anima? Assolutamente sì. Benissimo, grazie e alla prossima volta. E Annalisa, sentiamo, tornerai grazie. Ancora? Grazie. Grazie per avermi ospitato. È stato un piacere. Tu, Annalisa, sarai qui fino a metà agosto. Assolutamente. E quindi ci saranno sicuramente altre trasmissioni dei Colori dell'Anima in cui sarai presente. Assolutamente. Allora, grazie quindi a queste due belle voci femminili dei Colori dell'Anima. Noi ci ritroviamo lunedì, ecco, ma non lunedì prossimo, dunque lunedì 9 aprile, e lo ricordo che è il lunedì dopo Pasqua, e quindi saremo tutti noi gli speaker dei Colori dell'Anima, saremo in vacanza, quindi la trasmissione ricomincerà il lunedì 16 aprile, sempre alle ore 21. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi. Buona serata a tutti. Buonasera. Buona serata. Ciao.